canaglia, un'anima insicura e scura. Questa strada che si pone davanti, stesa a terra, mi lascio cullare dai miei pianti stanchi. I miei occhi non vedono più il sole, acceca troppo il freddo, scaccia l'ultimo tepore. L'ultima fiammella accesa e flebile si sta spegnendo. L'ultimo sorriso un ghigno tra pezzi e tormento. Il tradimento è un'ombra che ti porti dentro. E ad ogni passo falso perdi un poco di quel senso che serve a ragionare, ma continuare a vivere in questa vita sterile significa opprimere se stessi, incatenato a scelte di qualcun altro, firmando con il diavolo l'ennesimo patto. Ogni mio dubbio, ogni pensiero scorre veloce il tempo, ogni secondo, ogni giornata che la vivo come viene, sopravvivo ogni mazzata, ammazzando la malinconia, istanti di nostalgia, ogni ricordo imprezzo ciò che ero e ciò che sono adesso. È un riflesso in questo specchio che divide il buono dal cattivo, il nuovo dal vecchio, dalla me di ieri che mi manca e non sai quanto. Quella che sono adesso mi sta sul cazzo e piango dentro, non lo faccio uscire. Sono forte forse, ma è solo per apparire. Cosa sono, cosa ero, cosa sarò, cosa farò. Ormai non so più niente, non lo so, io non lo so. Ho imparato a farmi compagnia da sola fra la gente. Ho cominciato a far qualcosa, meglio che non far mai niente. Meglio dar cazzate a terra che dare in faccia agli altri. Stringendo forti i denti fingerò sempre di amarmi. Meglio sfogarmi dentro, meglio fasciarmi un pugno. Meglio mettermi un casco e dare testate al muro. Meglio spezzarmi il cuore e avvelenarmi l'anima. Meglio un frontale in moto e un incidente con la macchina. Meglio buttarmi giù, bungee jump, la mia sfida. Tanto fuori salgo su, l'ho sempre fatto da una vita.